e però abbiamo pensato che fosse utile per gli ascoltatori spiegare qual è il tema del dibattito in corso, vale a dire il nuovo possibile intervento sulle aliquote IRPEF, ad esempio. Dalle precedenti finanziarie, 2 anni fa ricordiamo quella iniziativa che ha fissato 5 scaglioni di imposta sul reddito, proporzionali a seconda della fascia prestabilita, l'obiettivo recente del Ministro dell'Economia è di ridurre a 2 aliquote, un obiettivo molto ambizioso perché comporterebbe certo una semplificazione enorme, ma bisognerà capire anche che tipo di impatto potrebbe avere una simile razionalizzazione anche in termini di opportunità fiscale, dato che cancellerebbe appunto la progressività delle aliquote esistente ora. Noi intanto continuiamo a pagarla con il nostro stipendio, con la nostra pensione, secondo le norme e le regole attuali dei 5 scaglioni. Parliamo dell'imposta più grande, più importante di tutto il gettito fiscale, è la più pagata del nostro paese, dato che è riferita a tutte le persone fisiche dipendenti o liberi professionisti e rappresenta 1/3 dell'intero gettito. Allora, come si paga? Quali sono le scadenze annuali? Questa mattina ci aiuta ad orientarci in questo comparto che per qualcuno è molto ostico e incomprensibile, magari non si controlla mai la busta paga o la pensione per vedere anche a quale scaglione apparteniamo. Buongiorno al nostro Luciano De Vico, dottore commercialista, è uno dei disturbati, nel senso che il Sole 24 Ore lo fa scrivere tantissimo per il Sole 24 Ore su questo argomento. De Vico, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto questo è un acronimo, ci spiega che cos'è l'IRPEF? Allora, l'IRPEF è un'imposta che grava sui redditi delle persone fisiche e la metodologia di calcolo, diciamo, non è proprio semplice, nel senso che prevede una serie di passaggi che cominciano proprio dal calcolo di quello che è il reddito complessivo, vale a dire si sommano tutti i redditi realizzati in un determinato periodo di imposta. Per raggiungere poi la determinazione del reddito imponibile si deduce dal reddito complessivo la somma di tutti quelli che sono gli oneri deducibili, per esempio l'assegno al coniuge, i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, si deduce anche la rendita catastale dell'abitazione principale e delle pertinenze. E siamo quindi arrivati alla determinazione del reddito imponibile. Occorre adesso calcolare l'IRPEF lorda, che, come dicevi tu in apertura, si calcola moltiplicando il reddito imponibile per le aliquote, che attualmente sono 5 e crescono e sono applicate a scaglioni di reddito. Ad esempio, il primo scaglione fino a 15.000 euro, l'aliquota è del 23%. Mm-hmm. Ma non abbiamo ancora finito, perché una volta calcolata l'IRPEF lorda occorrerà andare ad operare con le detrazioni di imposta, e tra queste le detrazioni per carichi familiari, le detrazioni per lavoro dipendente e per la produzione di altri redditi e infine poi le detrazioni, quel mare magnum di detrazioni mi verrebbe da dire, nella misura per esempio del 19%, del 20%, del 36%, del 55%, sono quelle legate al sostenimento di oneri che danno diritto appunto alle detrazioni. La più famosa, la detrazione è quella del 19% per le spese mediche, il 36% sulle ristrutturazioni, il 55% per il risparmio energetico. No, tra l'altro volevo, certo, ricordare De Vico che su questo punto, esattamente come aveva fatto ieri Alessandro Mila nel corso della sua rassegna stampa, c'è un articolatissimo pezzo del collega Marco Mobili sul Sole 24 Ore che ieri ha proprio elencato questo labirinto degli sconti IRPEF e tutte le deduzioni e le detrazioni che ci danno l'opportunità di ridurre il prelievo fiscale sul nostro reddito. Prego, la faccio concludere. E quindi arriviamo alla determinazione dell'IRPEF netta. E questo è il calcolo dell'IRPEF. All'IRPEF poi occorre aggiungere, sempre rimanendo nell'ambito delle persone fisiche, occorre aggiungere l'addizionale regionale e, laddove i comuni l'abbiano deliberata, l'addizionale comunale. Quindi non si pagano ovunque, non si pagano in tutte le regioni, non si pagano in tutti i comuni questi addizionali. In tutte le regioni, ma soltanto nei comuni che l'hanno deliberata. Benissimo. E per in questi casi la base imponibile è data dal reddito complessivo calcolato ai fini IRPEF ridotto dei soli oneri deducibili, di modo che la base imponibile poi si moltiplica per l'aliquota deliberata e quindi si calcola appunto anche qui l'addizionale da versare all'erario. Abbiamo specificato appunto che l'attuale formulazione dell'IRPEF impone che questa venga pagata a seconda del reddito che si percepisce naturalmente, quindi c'è una percentuale diversa, un'aliquota diversa a seconda dello scaglione di reddito all'interno del quale ci troviamo con la nostra condizione reddituale. Ricordiamo quali sono le aliquote attuali e poi magari le chiedo anche, Devico, un commento su questa possibile razionalizzazione verso la quale il nostro paese andrà nel giro probabilmente di un paio d'anni. Certo, il 23% è l'aliquota minima per redditi che vanno fino a 15.000 euro, il 27% da 15 a 28.000 euro, il 38% da 28 a 55.000 euro, il 41% da 55 a 75.000 euro e oltre 75.000 euro l'IRPEF viene calcolata nella misura del 43%. Al posto di queste 5, delle attuali 5, si pensa di introdurre due sole aliquote fiscali, la più bassa del 23% per i redditi fino a 100.000 euro, la più alta del 33% per tutti i redditi superiori. Cosa dicono gli addetti ai lavori? È utile una razionalizzazione di questo tipo? Sì, lasciando da parte questioni politiche, ovviamente. Esattamente, infatti, le chiedo proprio momento, dal punto di vista proprio strettamente professionale suo, insomma, cosa ne pensa? Se questo dovesse essere accompagnato da una reale semplificazione del sistema di calcolo delle imposte, ben venga, nel senso che si possono anche adoperare due aliquote, però occorre anche rivisitare in buona sostanza il sistema delle detrazioni e delle deduzioni. Ad esempio si potrebbero trasformare delle detrazioni d'imposta, quelle per esempio che sono uguali per tutti, pensiamo alle spese mediche come dicevamo prima, il 19%, che quindi la detrazione spetta in misura uguale a chi ha un reddito basso e a chi ha un reddito alto, anzi magari chi ha un reddito basso ne perde anche il beneficio perché non ha imposta capiente per poter sopportare le detrazioni. Dicevo, trasformare per esempio alcune detrazioni in deduzioni e quindi avere degli sconti fiscali maggiori. Si sente parlare ancora per esempio di quoziente familiare, allora ad esempio trasformare anche qui le detrazioni per carichi familiari in deduzioni e quindi andare ad operare non alla base e quindi non al momento in cui si calcola l'imposta, ma sul reddito. Cui, esatto, come abbattimento del reddito. Reddito tutto, come ovviamente reddito. Se dovesse essere accompagnato da una reale semplificazione anche degli adempimenti, ma soprattutto delle modalità di calcolo delle imposte, naturalmente è una riforma che ritengo gli operatori del settore non possano che accettare di buon grado. Certo, ovviamente. Sì, sì, sicuramente, insomma, però come diceva lei, qualora ci fosse, anche nel giro di un paio d'anni o tre anni, in ogni caso è chiaro che non interverrà solamente sul ridisegno delle aliquote, ma anche, come diceva lei, proprio su complessivamente tutto il sistema appunto tributario. Allora, ritorniamo al regime attuale, quando si paga di solito l'IRPEF? L'IRPEF qui dipende ovviamente, il primo prelievo avviene nel mese di giugno, nel senso che con il modello 730 o con il modello unico, nel primo caso presentazione del modello 730, ricordiamo che la prima scadenza è fissata al 30 aprile per la consegna del 730 al proprio sostituto d'imposta, al proprio datore di lavoro, o il 31 maggio se ci si rivolge ad un CAF, a un professionista abilitato. In questo caso, in caso di assistenza fiscale, ovviamente sarà il datore di lavoro che preleverà dalla busta paga del mese di luglio l'ammontare dell'imposta, ovvero restituirà eventualmente il credito. Nel caso di modello unico, invece, in autotassazione si va a giugno e quindi autotassazione vuol dire che il contribuente effettua i calcoli dell'imposta, la versa e poi provvederà, nel caso di trasmissione telematica, a trasmettere telematicamente il modello entro il 30 settembre. Quindi, insomma, si paga in due rate entro giugno e la seconda per il restante 60% dopo il primo acconto del 40 entro il 30 novembre, giusto? E il 30 novembre sì, c'è il secondo acconto, quindi a giugno abbiamo il saldo dell'imposta dovuta nell'anno solare precedente, nel 2010 salderemo l'imposta 2009 e il versamento del primo acconto. Il versamento pagamento del secondo acconto invece è rimandato al mese di novembre. De Vico, noi stiamo quasi chiudendo la nostra trasmissione, le chiedo a questo punto, sperando per chi non si fosse mai imbattuto in questo termine e come dire anche nelle conoscenze di questa imposta che in realtà ci riguarda praticamente tutti, le chiedo a questo punto se abbiamo detto tutto sull'IRPEF, se l'ABC lo abbiamo fatto completamente, qual è anche la prossima importante scadenza fiscale su cui sono impegnati i commercialisti e quindi attenzione a che cosa per i contribuenti? Attenzione al 28 febbraio, c'è la consegna del CUD e quindi tutti i lavoratori dipendenti e pensionati dovranno ricevere dal proprio ente pensionistico o dal proprio datore di lavoro il modello CUD, che è il modello fondamentale di partenza che riepiloga i redditi di lavoro dipendente e di pensione percepiti nel 2009 e certifica le ritenute d'acconto che il sostituto d'imposta ha operato al momento di corrispondere appunto alla busta paga. Facciamo anche quell'altra raccomandazione che con lei, quando faccio proprio le mie trasmissioni, le nostre trasmissioni a Salvadanaio, soprattutto dedicate alla dichiarazione dei redditi, facciamo sempre, a cominciare da questo periodo, forse un po' presto, però non è mai tardi per mettere ordine fra la propria documentazione fiscale. Cominciamo a radunare tutti quei documenti che ci serviranno quest'anno per la dichiarazione dei redditi, così almeno facciamo la cartellina e quando abbiamo l'appuntamento con il commercialista siamo a posto? Certo, e in questo caso quindi dobbiamo stare attenti a raccogliere tutte le spese che danno diritto a deduzioni o a detrazioni d'imposta. E quindi ad alleggerire magari l'IRPEF che versiamo ogni anno, giusto? Sì, certo. Grazie De Vico, le auguro una buona giornata e ci sentiamo presto. A presto. Alessandro. Eccoci qua. Allora, a Salvadanaio noi oggi ci occupiamo dell'aumento di capitale di Unicredit che è partito lunedì scorso, però naturalmente visto questi rendimenti dei bot a Rasoterra o anche al di sotto praticamente, oggi non mancheremo anche di commentare questa situazione notizia. Che stamattina è in prima pagina anche sul Sole 24 Ore. Sono le 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, le notizie in primo piano, innanzitutto la situazione ad Haiti. È colpita da un terremoto devastante, sarebbero centinaia le vittime accertate, migliaia le persone sotto le macerie. Le autorità parlano di enorme catastrofe, il Ministero degli Esteri italiano sta verificando anche la sorte dei circa 70 connazionali nel paese. In Italia la giustizia a tener banco con il decreto legge che oggi probabilmente approderà in Consiglio dei Ministri. Il provvedimento prevede la sospensione per 60 giorni dei processi in cui siano emerse nuove contestazioni da parte del PM. Il decreto avrebbe effetto anche sui processi in cui è imputato il Premier Berlusconi e insorge l'opposizione. Il ministro della Giustizia Alfano intanto proporrà oggi al Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza nelle carceri italiane, in crisi per un sovraffollamento. Intanto il guardasigilli porterà anche il piano carceri con l'obiettivo di portare la capienza da 63.000 a 80.000 posti. Infine per il calcio la Roma passa gli ottavi di finale di Coppa Italia battendo 3-1 la Triestina. Stasera sono in programma Juventus-Napoli, Milan-Novara e Genoa-Catania. E dunque alle 8:33 minuti, non ho citato tra le notizie la vicenda anche diplomatica tra Cairo, tra l'Egitto e l'Italia, perché di questo ci occupiamo nel nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Allora, dal Cairo sono partite accuse forti nei confronti dell'Italia, gli episodi di Rosarno, ma non solo, anche gli episodi ultimi fanno pensare a un razzismo molto forte, un razzismo nei confronti degli extracomunitari, discriminazione nei confronti degli extracomunitari che ci sono in Italia. Che ne pensate? Siete d'accordo? Ci sono state le reazioni, per esempio, di esponenti leghisti come Bossi, che ha detto «Li uccidono i cristiani», che noi razzisti. Ne vogliamo parlare con due ospiti che saluto. Laura Boldrini, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Laura Boldrini è portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati in Italia. Voglio salutare anche Luigi Amicone che dirige il settimanale Tempi. Buongiorno direttore. Buongiorno. Laura Boldrini, lei è stata anche a Rosarno in questi giorni. Ieri l'ONU ha parlato di rischio di tendenze xenofobe in Italia. Le chiedo innanzitutto, c'è del razzismo? Lei ha visto del razzismo nei confronti degli extracomunitari a Rosarno? Beh, intanto vorrei precisare che non è la prima volta che ci sono degli avvertimenti verso l'Italia. Questa è una storia che insomma nasce qualche anno fa. Ricordo che la prima volta che si è parlato di tendenze xenofobe è stato nel 2006, quando lo Special Rapporteur dell'ONU sulle forme di razzismo e discriminazione razziale, Dodu Dien, appunto disse all'Italia che aveva riscontrato nel corso della sua visita questo tipo di tendenze xenofobe e in qualche modo sollecitava l'Italia a mettere in atto delle raccomandazioni. Questa è stata la prima volta, ma poi c'è stato anche il Comitato dell'ONU per l'eliminazione delle discriminazioni razziali, poi c'è stato il Consiglio d'Europa, poi ci sono stati altri organismi che hanno comunque sollevato la questione e ieri siamo arrivati al Consiglio dell'ONU sui diritti umani. Questo a dire che evidentemente se c'è una tale attenzione degli organi sovranazionali forse è perché c'è un problema e sarebbe auspicabile che le autorità italiane ne prendessero atto attraverso proprio una serie di azioni, perché peraltro questi organismi poi raccomandano, per esempio, di fare qualcosa. Che si potrebbe fare? Che ma si dovrebbe fare? Ad esempio, fare? Non so, condannare immediatamente i discorsi di odio che negli anni abbiamo visto si sono moltiplicati sia da parte dei politici nazionali che da parte di quelli locali. Ci sono state anche delle condanne giudiziarie, ma la condanna va fatta anche a livello politico per l'opinione pubblica affinché questo non faccia da riferimento. Ci sono stati episodi, guardi, noi come Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati abbiamo fatto una campagna di sensibilizzazione insieme ad altre 26 organizzazioni italiane della società civile. È la prima volta, le dico, che si mette insieme un universo così variegato, ma proprio perché abbiamo condiviso tutti un'analisi. E l'analisi è che in Italia il fenomeno migratorio purtroppo non è stato inquadrato nel modo giusto, cioè media e politica, anzi direi politica e media hanno preferito un'equazione che è quella immigrazione uguale minaccia alla sicurezza. Su questa scia si è creata quindi anche una convinzione da parte dell'opinione pubblica che dall'immigrazione provenga un pericolo, una minaccia. Chiedo infatti da un'intervista che lei leggo, l'intervista che lei ha fatta a Famiglia Cristiana, Famiglia Cristiana che tra l'altro ha eletto Laura Boldrini quest'anno italiana in questo caso dell'anno. Negli ultimi anni la sensibilità degli italiani è molto cambiata nel percepire il fenomeno migratorio, cioè a dire quello che sta dicendo lei, immigrato uguale clandestino, immigrato uguale qualcuno che potenzialmente delinque? Sì, qualcuno che potenzialmente è una minaccia, quindi evidentemente gli italiani oggi stanno sulle, come dire, sulle difensive, hanno paura verso gli immigrati e quindi non sono mossi da curiosità come dovrebbe essere, oppure da un interesse a, come dire, vivere meglio in questa evoluzione della società italiana. La società italiana è cambiata radicalmente. Io credo che gli italiani stiano facendo un lavoro da soli nel capirla questa società. La politica e i media non hanno aiutato la comprensione di questo fenomeno, che è in evoluzione, ma dai palazzi esce fuori sempre la stessa immagine da anni, così come nei talk show televisivi. Cioè non si può andare avanti con queste equazioni, anche su Rosarno. La prima reazione è stata, no, siamo stati troppo tolleranti contro i clandestini. Al dato di fatto si va a vedere che la maggioranza di queste persone non è irregolare, ma regolare. E glielo dico perché ho fatto anche, al di là dei dati ufficiali dati da Maroni poi ieri, quando ha riferito, sì, ma proprio per esperienza noi con i colleghi siamo andati in giro per le cascine, per i casolari abbandonati, dove vivono queste persone trattate come bestie, come animali. E allora lì si è visto subito che la maggior parte di questa gente era in regola, aveva il permesso, erano rifugiati, persone perseguitate, persone che arrivavano in Italia per chiedere protezione e l'avevano. Insomma, un problema razzismo, mi pare di capire, lei dice c'è, come anche evidenziato l'ONU. Vorrei andare da Luigi Amicone dicendo che il 57% di voi che però state votando dice no, non siamo d'accordo con l'Egitto, non siamo razzisti con gli extracomunitari. Luigi Amicone, lei oggi ha fatto già un intervento sul Foglio abbastanza duro anche nei confronti dell'ONU, cioè come dire, ma insomma, prima le chiedo, vabbè, della questione Egitto, se è sulla falsa riga di quello che ha detto anche Umberto Bossi, quello che scrive oggi La Padania, quello che titola oggi il giornale, insomma, cioè uccidono i cristiani e ci vengono a fare la morale. E poi anche sull'ONU, perché ce l'ha in questo intervento con l'ONU? No, perché l'ONU, che è una nobile organizzazione che usa parole giuste e comprensibili, poi nei fatti, storicamente nei fatti dico, dimostra l'inadeguatezza completa perché certamente nei paesi occidentali è molto rigida e molto inflessibile, ma proprio nel caso egiziano. Ho già detto che è irricevibile il richiamo egiziano per il puro e semplice fatto che gli immigrati neri e musulmani vengono trattati là in quel paese come sono stati trattati nel 2005 quando furono ammazzati circa 100 poveri profughi, compreso bambini, al Cairo, solo colpevoli della richiesta di poter emigrare, ed erano posti sotto l'alto commissariato ONU. Questa strage avvenne nei pressi del commissariato ONU che doveva difendere queste persone. Abbiamo altre storie ancora più drammatiche da Kigali a Srebrenica di quando il razzismo si fa serio e genocida, di come l'ONU abbia, come dire, voltato le spalle alla povera gente. Questo non vuol dire giustificare tendenze che possono esserci anche in Italia, che non riguardano, secondo me, un fenomeno di razzismo e di xenofobia. È tanto vero questo che anche qui i fatti, non le parole, dimostrano che le regioni, diciamo così, interessate da quella politica più dura, almeno a parole, nei confronti dell'immigrazione, parlo delle regioni del nord, dove naturalmente il leghismo o certe posizioni, anche a parole sgradevoli certamente, e ingiustificate, però nei fatti è stato documentato proprio ieri dal Corriere della Sera l'integrazione, situazioni diciamo bestiali come quelle che si sono viste a Rosarno, che effettivamente tali sono e che derivano dal fatto più di una mancanza, un'assenza di civiltà elementare anche per gli italiani, assenza delle istituzioni, degli enti locali, chiacchiere che si fanno sentimentali, buoniste, e poi nell'atto pratico poi non sì. si integrano le persone. Ecco, è tutt'altra cosa, qui si parla di arretratezza e di situazione sociale degradata, non di razzismo, xenofobia. Che sono una situazione che ha portato a questa tensione sociale. Però lei è accusato insomma anche di doppio pesismo l'ONU. Laura Boldrini dice: adesso non vorrei tornare a quei fatti egiziani che non, del 2005 non è proprio il tema della trasmissione, però dice questo doppio pesismo dell'ONU, che da una parte parole buone, però poi quando bisogna intervenire attivamente spesso ci sono fatti storici nei quali magari la condanna è più facile nei confronti dell'Italia che andare a condannare un paese dove i diritti sono umani sono meno rispettati. Questo mi sembra che si possa dire che è l'Egitto, no? Ma io penso che si perda di vista una cosa importante, cioè che in questo caso richiamato in Egitto i manifestanti erano nei pressi dell'Alto Commissariato, ma l'azione di polizia era quella del governo egiziano, cioè non è che l'Alto Commissariato è un'agenzia che possa intervenire militarmente o che possa intervenire con la forza, cioè questa azione è stata decisa dalle autorità egiziane, fu una parentesi dolorosissima proprio perché queste persone, come dire, manifestavano comunque senza sì, certo, avevano anche minacciato qualcuno del personale anche nostro, però comunque non era stata mai richiesta da noi un'azione di forza, questo deve essere chiaro. Sì, certo. Quindi, cioè, voglio dire, mettere questa cosa nel calderone delle responsabilità mi sembra altamente fuorviante. Non le piace, insomma, sentiamo no, che non cosa mi piace, perché non è così, perché questa è stata un'azione del governo egiziano di intervenire pesantemente perché hanno ritenuto che era l'unico modo per scoprire. Ma perché Amicone la cita? Amicone, lei la cita perché per dire appunto da una parte si chiudono gli occhi o comunque si è più tolleranti o comunque non, insomma, si gestiscono situazioni in maniera diversa, invece in Italia o nei paesi più democratici fa comodo sparare contro con sentenze? Ma Amicone? Sì, no, sì. È questo, cioè l'ONU mostra giustamente una forza di richiamo e un'autorevolezza, mobilitazione nei paesi democratici dove ci sono episodi, evidentemente anche tendenze, ma in giro per il mondo dove per esempio il razzismo anticristiano è travolgente. In questi giorni quotidianamente assistiamo a una repressione, attacchi sistematici. L'ONU non si sente, il Consiglio d'Europa è stato zitto, cioè ci sono questi organismi internazionali che sono travolgenti dal punto di vista dell'autorità nei paesi democratici, e dalle altre parti non si fanno sentire, almeno loro dicono ci ritiriamo da una parte del mondo e ci occupiamo soltanto dei diritti umani nei paesi democratici. Allora vediamo che ne pensa Marcella da Torino, che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Marcella, siamo razzisti noi italiani, come ci dicono dall'Egitto? Certamente, addirittura così. Ah sì, pensiamo a Borghezio, pensiamo a Maroni, pensiamo a Bossi, ma insomma. Vabbè, ho capito, ce la rappresentano, mi scusi, vorrei finire. Perché sì, volevo dire al. Che non sono qui, però, Borghezio, perché poi non posso rispondere. Ma ci sono le loro parole sui giornali, questo volevo dire. E volevo rispondere anche un secondo, se è possibile, a quel signore che diceva razzismo anticristiano. Sì. No, i cristiani non sono una razza, bisogna che noi impariamo a usare le parole come si deve. I cristiani non sono una razza. Perché ecco, e quindi ma gli attacchi niente... vogliamo dire gli attacchi anticristiani, questi ci allora sono. Diverso. Allora diciamo le cose come sono. Allora, detto questo, purtroppo l'Egitto ha ragione, non c'è niente da fare, è meglio che noi riguardiamo la nostra cultura, guardiamo da chi siamo rappresentati e ci facciamo una ragione. Va bene. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, vi chiediamo se le accuse dell'Egitto, l'Italia è razzista nei confronti degli extracomunitari, se siete d'accordo. Per ora sempre il 57% dice di no. Vorrei se da un ascoltatore, Stefano d'Arezzo, che ne pensa. Stefano, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Milan. Senta, niente, io secondo me il problema non c'entra in nulla il razzismo, insomma. È un problema di legalità. Si immagini un'azienda agricola ad Arezzo e quando siamo lavoratori stagionali per fare vari lavori devono avere un luogo queste persone che si chiamano dove vivere. Certo. Ovviamente è tutto controllato anche dall'ispettorato del lavoro che tutti gli anni vengono. Io mi immagino là, non so, io hanno detto che erano tutti lavoratori con il permesso di soggiorno, ma vorrei vedere le situazioni, se stavano in degli edifici che non erano agibili, ma perché stavano in questi edifici? Nessuno sapeva, la USL non lo sapeva, dove era l'ispettorato del lavoro, dove erano i controlli? Forse sapevano in realtà, perché tra l'altro non è il primo anno che a Rosarno si verificano questi non in queste modalità, ma anche negli anni passati è successo questo. Per cui, insomma, lei dice una questione di rispetto delle regole della legalità. Grazie Stefano d'Arezzo, non di razzismo. Intanto voglio salutare, ci ha raggiunto l'onorevole eurodeputato Magdi Cristiano Allam. Buongiorno Allam. Buongiorno a voi tutti. Eurodeputato del Partito Popolare Europeo, dell'UDC, tra l'altro nato in Egitto, cresciuto in Egitto, poi naturalizzato italiano. Insomma, il suo percorso anche di fede lo abbiamo seguito, lo conosciamo un po' tutti. Che ne pensa lei di quello che ci dicono dal Cairo? Ma direi che il governo egiziano è l'ultimo a dover parlare di discriminazione. Basta guardare lo stato del rispetto, o meglio, del mancato rispetto dei diritti fondamentali della persona, la persecuzione nei confronti dei cristiani copti, che sono i veri autoctoni dell'Egitto. È stata un'uscita infelice da parte di chi non ha alcuna credibilità per affermare questo, e condivido quanto detto dal nostro ascoltatore che ho appena ascoltato. È un problema invece di legalità, è un problema di assenza della cultura del dovere, dell'assenza della cultura delle regole e del senso dello Stato, ed è in questo contesto che va inteso quanto è accaduto, i fatti tragici nella loro disumanità che devono comportare da parte nostra l'assunzione della consapevolezza che in Italia ci deve essere un riscatto sul piano della cultura dei doveri e della cultura delle regole. Però quello che è successo, anche i fatti non solo di Rosarno, le chiedo, prima l'ascoltatrice ha detto per esempio molte dichiarazioni di esponenti politici della Lega, molti episodi, anche la Chiesa spesso ha parlato a dire insomma ci vuole più accoglienza, ci vuole più umanità, anche il parroco di Rosarno ha detto li abbiamo cacciati ma molti erano qui nella legalità, molti erano qui per lavorare. Cioè lei non vede dei germi in qualche modo, non so se xenofobi o comunque di razzismo, come ci ha accusato anche l'ONU in Italia? Allora io ritengo che come dire ex giornalista comunque di formazione sociologica, noi dobbiamo partire dai dati di fondo. I dati di fondo indicano che proprio la terra che in Italia presenta il più alto indice di disoccupazione, soprattutto tra la fascia giovanile, e al tempo stesso una terra che accoglie migliaia di immigrati, molti dei quali illegali, clandestini, che sono ridotti a fare dei lavori in condizioni certamente disumane. Il secondo punto è che questa illegalità, che si colloca nell'ambito del cosiddetto lavoro nero, in realtà non è un'eccezione nel nostro scenario economico italiano. Un terzo del prodotto lordo italiano è formato dal lavoro nero. È importante chiarire questi dati di fatto per comprendere come effettivamente alla radice del problema c'è un problema di legalità e c'è un problema di recupero della cultura del dovere al lavoro. In Italia si parla fin troppo del diritto al lavoro, ma si dimentica il dovere del lavoro. Mi domando come sia possibile che in una terra che ha il più alto tasso di disoccupazione in Italia, al tempo stesso si debba ricorrere alla manodopera straniera per fare dei lavori che sicuramente non comportano un particolare genio umano. Che deve fare l'Italia sulla questione clandestini? Secondo lei fa bene alla questione dei respingimenti di cui tanto si è discusso? Quello che serve è una autentica politica di integrazione, di immigrazione scelta e di integrazione, che faccia venire meno le cause per le quali noi oggi stiamo parlando di prevalentemente di immigrazione clandestina e quindi tendiamo a enfatizzare la dimensione della repressione. Dobbiamo voltare pagina, dobbiamo cominciare con il mettere in atto una politica che a partire dai paesi d'origine degli immigrati si accerti che vi sia un percorso che consenta loro di apprendere la nostra lingua nazionale, la nostra cultura, quelle professioni che servono effettivamente per un inserimento efficace nel nostro mondo del lavoro. Questo investimento è fondamentale, noi abbiamo le risorse per farlo. Il problema è che questa classe politica, questa cultura politica non vuole investire in un processo i cui risultati sono di lungo o di medio termine. Pertanto, mentre la repressione è un qualcosa i cui effetti si vedono subito e possono essere facilmente monetizzabili in termini di voto, in un contesto dove ogni giorno è campagna elettorale, si finisce per investire in quest'ambito, ma il problema vero è che l'Italia ha la necessità vitale di una strategia di integrazione. Questo grazie a Magri Cristiano Allambo. Voglio sentire Raimondo da Monza, che ne pensa, ci ha chiamato. Raimondo, buongiorno. Salve, buongiorno. Allora, io sono un ragazzo egiziano e cristiano copto. Sì. Volevo accusare io il governo egiziano per quanto riguarda che fa contro i cristiani di Egitto. Non che loro che accusano l'Italia contro il razzismo, prima di togliere quello che hai negli occhi, togliere quello che hai tu. Questa è una coperta per quanto riguarda quello che hanno fatto contro il cristiano. Cioè un modo diciamo di distogliere l'attenzione dalle violenze che sono accadute contro i cristiani copti, lei dice, in Egitto. Questo erano Franco Frattini, già ha detto, accusato l'Egitto per quanto riguarda i cristiani, loro hanno fatto apposta questo discorso per coprire che hanno fatto. fatto. Guardi, la sua teoria oggi è ripresa anche dal Corriere della Sera, che dice: ecco perché ci hanno accusato, perché le stesse parole, sostanzialmente nei giorni scorsi Franco Frattini, il ministro degli Esteri, è stato molto duro nei confronti delle violenze accadute in Egitto, e guarda caso, diciamo, la dichiarazione del portavoce del Ministero degli Esteri egiziano è pari presa, quasi pari passo, come dire, voi accusate e noi con le stesse parole accusiamo l'Italia di quello che è successo. Questa è, insomma, la ricostruzione che Raimondo da Monza, insomma, cristiano, egiziano e cristiano, ci ha raccontato oggi, è ripresa anche dal Corriere della Sera. Io mi devo fermare, non ho più tempo, ringrazio tutti, da Magri Cristiana Allam a Laura Boldrini, a Luigi Amicone, Laura Marchesi in redazione con Peter Bescapè in regia. Votate sempre il sondaggio, sempre il 57%, le percentuali non si sono spostate, dicono l'Italia non è razzista, non ha ragione l'Egitto a fare queste accuse. Ci fermiamo, ci sentiamo domattina, arrivederci.